Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti cari gastronauti, cari radioascoltatori. Ebbene, ora è tempo di carciofi, allora abbiamo ben pensato di fare un giro per l'Italia, andare così a scoprire i luoghi deputati a questa tipologia di prodotto, ma sentiremo anche molti chef che ci daranno dei consigli di come cucinare, quindi come acquistare i trucchi, quindi come cucinare e quindi conseguenza anche qui i trucchi per la cucina del carciofo, ma non solo. Nella seconda parte di questa trasmissione parleremo anche di tartufo marzolino, perché è tempo di questo pregiato prodotto, e anche qui andremo a scoprire un po' come comprarlo, dove comprarlo e anche in quale maniera cucinarlo. Ebbene, iniziamo questo cibo vagando per l'Italia del carciofo dalla Sardegna, che è una delle regioni deputate ad offrire il meglio, e da un particolare territorio che è quello di Uri, in provincia di Sassari. E allora sentiamo un produttore, sentiamo un agricoltore, Roberto Simula. Buongiorno Simula. Buongiorno. Allora, buongiorno a tutti. Simula, quest'anno com'è la stagione dei carciofi? È buona, migliore dell'anno scorso oppure siamo come la crisi economica? Stiamo andando indietro? Ma al di là della crisi economica, quest'anno purtroppo stranamente qua in Sardegna ha piovuto tantissimo, per cui la stagione si è un po' ridimensionata, perché da ottobre sino a marzo, quindi ai primi di questo mese, le piogge sono state intensissime e hanno praticamente distrutto l'80% delle coltivazioni. Però nonostante tutto il carciofo ancora si trova sul mercato. Senta Simula, questa distruzione, così questo guaio molto serio per voi agricoltori, ha fatto crescere i prezzi che, diciamo, rispetto all'anno scorso, quindi con il 20% solo della produzione sarà dura, veramente molto dura. Sì, quest'anno sarà molto difficile riuscire a far chiudere i bilanci. I prezzi, lo diceva lei poc'anzi, la crisi economica ci ha portato sì a un tirar su un po' il prezzo, però non a dei livelli paragonabili ad altri anni, ecco. Però il vostro carciofo sicuramente è uno dei più straordinari che ci siano sul mercato. Ci vuole dire quale particolarità ha il carciofo di Uri? Niente, è una delle zone più vocate per la produzione di questo ortaggio. Infatti la produzione è antichissima, già da coltivazioni familiari, dalla fine del 1800 si riscontrano dei testi che riportano proprio la coltivazione di questo ortaggio, per cui è una pianta che si può oramai affermare sia autoctona. E quindi sicuramente ha queste sue peculiarità. Senta Simula, ma diciamo chi coltiva il carciofo come lei, altre coltivazioni per poter così far fronte a questi danni che sono veramente molto forti, perché l'80% è un danno davvero drammatico. Avete altre coltivazioni? Sì, ma sono sempre coltivazioni un po' marginali, perché la coltivazione del carciofo impegna praticamente i 12 mesi dell'anno, perché è un tipo di cultura che purtroppo ti fa lavorare in campo per 12 mesi, tra preparazione dei terreni, reimpianto, raccolta. La stagione inizia a ottobre, finisce a maggio, poi a giugno si inizia con i rimpianti, per cui non è che ci siano grandi margini per poter fare altre cose. Ecco, quanto costa un chilo di carciofi in questo momento? Allora, il nostro carciofo normalmente viene venduto a pezzo. Il produttore in questo momento sta portando a casa 30-40 centesimi contro €1, €1,20, €1,30 al punto vendita. Bene, io la ringrazio Simula e le auguro così che questo anno passi velocemente per poter arrivare alla prossima produzione di carciofi. Grazie, grazie. Ricordo Roberto Simula, carciofo di Uri, uno dei più pregiati tra i carciofi italiani. Ma ora andiamo da un cuoco perché ci sono diversi trucchi per trattare i carciofi. Andiamo all'osteria del Povero Diavolo in Romagna, andiamo nelle vicinanze di Sant'Arcangelo a Torriana, da Pier Giorgio Parini. Buongiorno Pier Giorgio. Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti. Senti Pier Giorgio, volevo chiederti, ci sono dei trucchi particolari con i quali trattare i carciofi? Sì, ci sono diversi metodi per cercare di almeno conservarli per il più lungo tempo possibile, anche pelati, puliti in frigorifero. Si possono conservare sia nel classico modo, quelli in acqua e limone, ma un modo che io, secondo me, esalta anche la dolcezza del carciofo, è quella di tenerli a bagno nel latte. Per quanti giorni si possono tenere a bagno nel latte? Un giorno, non è mai consigliabile tenerli per tanto tempo, perché comunque, essendo un vegetale, assorbe comunque i liquidi. E penso che la cosa migliore sia sempre quelli di comprarli e consumarli il prima possibile, però se non si può fare altrimenti, si può usare questo piccolo trucchetto per cercare di consumarli, di portarli avanti nel tempo, solo quello. Sì, perché il pericolo è che diventino neri, no? Si scuriscono se, esatto, se sì, si lasciano all'aria, questo è il problema. Ma ne risente, esatto, anche il sapore, se si lasciano così, se, quando diventano neri, anche il sapore ne va sì, a perdere. Esatto, sì, sicuramente questa ossidazione che il carciofo ha naturalmente, a contatto con l'aria, ossida i profumi freschi, dolci che ha il carciofo, tende a diventare leggermente amarognolo, anche un po' sgradevole, quindi sarebbe meglio cercare di evitare queste ossidazioni che ha naturalmente il carciofo. Senti Pier Giorgio, tu hai una ricetta particolare con i carciofi? Sì, io adesso sto facendo un'insalata, io sono un amante dei carciofi ma crudi, in insalata. Certo, bene, e sì, quindi, che hanno il massimo del sapore, esprimono in questa maniera. Esatto, io faccio un'insalata molto semplice, con dei carciofi pelati, tagliati molto fini, conditi con un po' di olio, un po' di sale, una grattata di pepe, delle scaglie di parmigiano e un filo di alchermes. Ah, questa è una grande sorpresa, un filo di alchermes, non avevo mai sentito, ma tu usi l'alchermes quello vero, immagino. Sì, esatto. Quello della farmacia di Firenze, da Santa Firenze, Maria Novella. Esatto. Ecco, volevo chiederti, come ti è venuta questa idea dell'alchermes? Perché l'alchermes? Perché l'alchermes ha questa nota dolciastra, speziata, che secondo me si sposa perfettamente sia col parmigiano che con questo gusto dolce, leggermente amarognolo che può avere il carciofo crudo. E quindi secondo me è un matrimonio fortunato. Ecco, volevo dire, cari radioascoltatori, che questa è una ricetta che, come avrete sentito, è facilissima da farsi a casa. Esatto. Ovviamente manca l'alchermes, ma procuratevi l'alchermes. Senti, e questa ricetta senza l'alchermes può, diciamo, rende abbastanza comunque? Oppure sì. No, è sicuramente un carciofo in insalata crudo col parmigiano, sicuramente è un piatto che soddisferà comunque a tavola. Diciamo che l'alchermes dà quel qualcosina in più che può stimolare la fantasia, ma non è niente, è sicuramente buono lo stesso. Comunque sicuramente mette in difficoltà chi deve servire il vino, perché l'alchermes col carciofo io credo che sia veramente una combinazione davvero molto molto difficile. Mi ricorda molto il famoso menù di Gualtiero Marchesi, solo con l'acqua, perché qui credo, esatto, che sia davvero intrigante sceglierci un vino, si farebbe comunque brutta figura. Senti, ti viene velocemente un'altra ricetta? Sì, adesso c'è fare un carciofo cotto in tegame in umido, e visto che iniziano a vedersi le prime fave, le prime piselli, ancora un po' presto, però le prime fave, quindi si potrebbe fare un carciofo nel tegame con un guazzetto di fave, quindi... Benissimo, poi quando arriveranno i piselli aggiungiamo anche i piselli, è così? Esatto. Bene, esatto. Bene, io ringrazio Pier Giorgio Parini dell'Osteria del Povero Diavolo. Il gastronauta. Carciofi e poi marzolino, questo è il menù della nostra trasmissione oggi. Vi insegneremo i trucchi per acquistare sia i carciofi che il tartufo marzolino, ma anche come cucinarlo e anche come accostare i vini. Ebbene, continuiamo questo nostro viaggio nel pianeta del carciofo e andiamo in una zona, diciamo, vocata, pregiatissima per i tartufi. Andiamo a Pestum, provincia di Salerno, in Campania, posto meraviglioso tra l'altro, e andiamo da Mario Sabia, da agronomo della cooperativa Pestum. Buongiorno Sabia. Buongiorno. E com'è andata la stagione? Come sta andando la stagione con queste piogge, con questo maltempo per i carciofi di Pesta? Non molto bene, per la verità, perché c'è stato e c'è tuttora un andamento climatico un po' avverso, in quanto, come lei ben sa, un po' in tutta Italia, ma soprattutto qui nel sud, in provincia di Salerno, c'è stato un mese, ci sono stati dei mesi, mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, ancora oggi, molto piovosi. Il carciofo è una pianta che non predilige molto ristagni idrici, che predilige un clima piuttosto mite, e quindi quando c'è un eccesso idrico ne risente con degli effetti, insomma, deleteri per la pianta, anche perché poi si sviluppano delle condizioni favorevoli allo sviluppo di malattie, malattie fungine soprattutto, con conseguenze per la cultura in atto. Sì, ci siamo collegati poco fa con un suo collega, Uri, in provincia di Sassari, anche lì addirittura la produzione quest'anno è stata del solo 20%, hanno avuto l'80% di distruzione della produzione. Anche da voi le cifre sono queste? Se non sono queste, siamo vicini, sì, ci sta un forte calo di produzione perché appunto ci sono tuttora delle condizioni avverse alla cultura, delle condizioni ambientali avverse alla cultura. Senta Sabia, quali sono i segreti secondo lei che deve tenere conto, i trucchi un consumatore che va a comprare un carciofo? Cos'è che deve guardare per capire se si tratta di un carciofo di qualità o meno? La zona qui di Pestum si coltiva il carciofo di Pestum, il carciofo tondo di Pestum, che ha contraddistinto da una forma rotondeggiante dei capolini e che presentano altri due importanti elementi di tipicità, e cioè la compattezza del capolino e l'assenza di spine dalle bratte. Le bratte sarebbero impropriamente dette le foglie del calcio, le bratte. E queste sono le caratteristiche che bisogna guardare. Senta, nonostante ciò, che questi problemi, a che prezzo è andato il vostro carciofo? Allora, se la qualità è buona, si riesce a spuntare anche un 70-80 centesimi a capolino, però insomma, per qualità inferiori alla norma si riesce a spuntare un prezzo inferiore, 40-50 centesimi a capolino in questo periodo. Poi man mano che si va avanti nel corso dell'annata i prezzi tenderanno a scendere. Certo. Ecco, rimanga con noi. Ora abbiamo con noi un notissimo sommelier, Giuseppe Palmieri dell'Osteria Francescana di Modena, e io voglio chiedere a lui, perché qui sta veramente il punto difficile dell'abbinamento con piatti a base di carciofo, addirittura di carciofo crudo, quale vino utilizzare. Caro Giuseppe, tu ci devi dare una mano, perché qui veramente brancoliamo nel buio su questo punto. Ciao Davide. Ciao. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Allora, intanto il carciofo è uno degli elementi più maltrattati delle grandi tavole della ristorazione gastronomica, perché considerato, insomma, soggetto poco disponibile all'abbinamento. Però, insomma, se poi si guarda con più attenzione, i margini ci sono, perché per esempio se uno guarda tutto quello che è il portafoglio straordinario della Germania, meglio ancora della Mosella, ci sono tanti Riesling che possono essere una soluzione ideale. Magari sarebbe opportuno andare su cose che abbiano una dote minerale e una dolcezza superiore, come tutti gli Riesling classificati come Spätlese o Auslese. Sicuramente. Quindi bisogna andare in Germania per fare il matrimonio con il carciofo, secondo te? Non necessariamente, però quello sicuramente è con un abbinamento goloso. Senti, faccio una domanda a un sommelier che è un po', come posso dire, pericolosa, nel senso, ti chiedo, ma c'è una qualche birra che può essere abbinata al carciofo? Assolutamente, assolutamente. Io ultimamente sono particolarmente coinvolto da una birra che viene prodotta da una cooperativa di ragazzi disabili sui colli bolognesi a Granaglione, fu il paese natale del grande Gianni Morandi, a base di castagne, sì. Che si chiama Beltane. Loro fanno come prodotto di punta questa birra doppio malto a base di castagne affumicate e ginepro. Allora, immaginiamo un'insalata di pasta fredda o tiepida del grandissimo Giovanni Assante, Gerardo di Nola, quindi carciofi crudi della pancetta croccante è una birra doppio malto, castagna affumicata e ginepro di bene, la conosco anch'io e devo dire che è veramente una birra eccellente questa di cui tu hai parlato. Rimani con noi, io voglio tornare un secondo da Mario Sabia, voglio chiedere Mario, ma a Pestum quando mangiate i carciofi cosa ci bevete sopra? Io direi un vino bianco. Un vino bianco locale? Sì, sì, sì. Cos'è? Falanghina? Sì, anche, sì. Falanghina. Anche se io non è che sono un esperto. Un bevitore, un esperto. Quello che posso dire per quanto riguarda questo argomento, posso dire che senz'altro il carciofo ha dei valori nutritivi molto elevati. Infatti si sa che è un ortaggio che ha al suo interno le principali vitamine, quale vitamina C, vitamina A, le tiamine. E oltre a questo poi ha una tra i suoi costituenti ha anche un polisaccaride, l'inulina, che ha un potere calorico inferiore a quello dell'amido, per cui si integra molto bene nelle diete adatte ai diabetici. Ho capito. Oltre a questo ancora c'è da dire che il carciofo ha anche delle proprietà farmacologiche, infatti presenta vari principi attivi che hanno spezzi d'azione che favoriscono il ricambio del colesterolo, contengono degli antimicrobici, attività epatoprotettrici. Si può essere consumato in tutte le sue parti, sia il capolino, sia il... addirittura le foglie possono essere utilizzate per preparare dei decotti, infatti c'è un'antica ricetta che praticamente prevedeva nel farmacerare per 5 giorni delle foglie in un litro di olio bianco, 20 grammi di foglie, dopodiché si filtrava l'infuso e veniva somministrato alla dose di un bicchiere due volte al giorno. Bene, Sabia, lei ci ha dato anche, diciamo, il carciofo medicinale. Io la ringrazio, le auguro che il prossimo anno sia migliore di questo nella raccolta del carciofo. Grazie a Sabia. Torno a Palmieri per chiedergli, anni fa Gualtiero Marchesi lanciò, per così dire, una sua delle sfide che ogni tanto Gualtiero fa, e lanciò un menù a base di acqua, disse bene, per diciamo degustare al meglio certi prodotti bisognerebbe usare l'acqua invece del vino, e diciamo che un riferimento era proprio anche al carciofo. Tu cosa ne pensi di questo accostamento acqua-cibo? Allora, io già il maestro ha, come sempre, come spesso succede, ragione, perché la saggezza sempre tiene in grande considerazione. Quella è una provocazione, e non per sottolineare anche il fatto che certe volte bisogna avere l'umiltà per fare uno se non due passi indietro e lasciare la grande cucina gastronomica al palato di chi si siede alle nostre tavole. Assolutamente condivisibile è se ci sono, insomma, particolari occasioni, particolari piatti in cui non si trova la comunione, un bicchiere d'acqua magari di qualità. Toglie i problemi, tu dici. Ti voglio chiedere un'ultima cosa, siccome nella seconda parte di questa trasmissione parleremo di tartufo marzolino. Ecco, al di là ovviamente che può essere cucinato in tanti modi, non è il tartufo bianco neppure il tartufo nero, questo marzolino è un tartufo molto particolare, diciamo, è una primizia. Ecco, volevo chiederti se tu pensi che ci sia qualche accostamento particolare con qualche vino. Assolutamente, un'idea, mentre tu ne parlavi Davide, che mi è venuta subito, è per tutti quei rossi giovani che hanno un'estrazione molto vegetale, come per esempio il frappato che fa Arianno Chipinti a Vittoria, in provincia di Ragusa. Quello è sicuramente un bicchiere adeguato, cioè ha quella dimensione femminea che gli consente di essere un complemento super super super interessante per una primizia quale questo tartufo. Bene, molto divertente questa distinzione tra rosso maschio e rosso femmina. E allora ti voglio chiedere una provocazione. Secondo te, tra Barolo e Barbaresco, chi è la femmina, chi è il maschio? Senza ombra di dubbio, la femmina è il Barbaresco. quindi diciamo molto più delicata, con sfumature molto più interessanti del maschio Barolo. Sì, ha un profilo femmineo, quindi giocato più sulle note che lo dimostrano più etereo, però ciò non significa che poi un vino femminile non abbia insomma le qualità adeguate per essere comunque un vino importante di struttura. La Grande Borgogna è sicuramente la regione più femminile del mondo, ciò non toglie che poi rimane il vino più elegante e più importante del mondo. Io sono molto, diciamo, favorevole al barbaresco, quindi sicuramente si vede che preferisco vini molto più delicati dei vini macio tipo il Barolo o altri, quindi di conseguenza questa distinzione secondo me potrebbe essere fatta per molti vini. Il gastronauta. Eccoci di nuovo tra carciofi e tartufo marzolino, però prima di tornare in argomento e riparlare ancora dei piatti a base di carciofo o dei luoghi deputati a questo prodotto, io voglio fare così una parentesi importante. Molte volte si parla del caro prezzi dei ristoranti, e anche giustamente, ma qualche volta ci sono dei gruppi di ristoratori che fanno delle operazioni di beneficenza che vale la pena di segnalare. E io vi segnalo questa iniziativa che è Frecce e Stelle per la Ricerca, il gusto per la ricerca, che è un'organizzazione così fondata da un gruppo di ristoratori con a capo la famiglia Laimo di Padova, i quali da anni organizzano dei pranzi e delle aste che vanno a beneficio di questa organizzazione, appunto, che è il Gusto per la Ricerca, che in questi anni ha raccolto ben 900.000 euro e speriamo che anche quest'anno ne raccolga altri, perché vanno sempre a beneficio di ricerca di malattie rare per i bambini. E allora domenica 22 marzo alle ore 12 nella base aerea delle Frecce Tricolori a Rivolta in provincia di Udine, un gruppo nutritissimo dei più grandi fra i ristoratori italiani, quelli stellati tanto per intendersi, ma anche altri, daranno vita a un buffet pranzo enorme con tantissimi piatti in assaggio e anche tantissima pasticceria, a cui seguirà un'asta di vini pregiati, vini antichi e vini sicuramente da collezionismo. Bene, ci sarà un prezzo da pagare ovviamente per questo pranzo, ma sicuramente andranno a beneficio della ricerca con documentazione negli anni come sono stati investiti questi soldi. Vi dirò di più, che il 100% del ricavato va in beneficenza, quindi tutti concorrono gratis e addirittura si pagano anche le spese. Succede di rado, ma questa volta che succede bisogna ben segnalarlo. Ebbene, torniamo ancora una volta torniamo al carciofo e parliamo di questo prodotto, di questo straordinario prodotto, con Francesco Passalacqua del ristorante Pane Acqua di Milano. Buongiorno Francesco. Buongiorno Davide, grazie per avermi chiamato. Bene, io ho assaggiato un po' di sere fa un piatto a base di carciofo davvero che mi è piaciuto moltissimo. Bene. E io vorrei che Passalacqua ce lo raccontasse, perché magari potrà dar modo ai nostri ascoltatori magari di poterselo preparare anche a casa. Sì, diciamo che è un piatto molto semplice, è un abbinamento del carciofo con l'uovo e il pecorino. Esattamente un carciofo ripieno, farcito alle erbe, con un tuorlo fondente su una crema di pecorino. La particolarità di questo piatto è che il carciofo, noi lo facciamo cuocere a bassa temperatura in un sacchetto sottovuoto con un goccio di olio, e quindi mantiene tutte le sue proprietà organolettiche e tutti i suoi sali minerali. Poi al momento del servizio lo facciamo con un pane insaporito delle erbe, lo passiamo in forno e lo accompagniamo con questo tuorlo, Ecco Francesco, tu quali carciofi usi? Perché che le tipologie, le varietà ci sono sul carciofo. Quindi sì, io sono un affezionato dei carciofi spina. Io ho avuto una formazione in Liguria, ho lavorato in Liguria, quindi sono anche piemontese, del Basso Piemonte, quindi c'è c'è sempre stato un grande scambio con la Via del Sale, quindi sono un amante dei carciofi spina liguri. Ecco, rimani con noi perché dall'altra, diciamo, su un altro telefono abbiamo in linea Antonello Colonna. Antonello Colonna del ristorante Open Colonna, ora si è trasferito dalla Bicco al Palazzo delle Esposizioni di Roma, ma c'era già in parte. E Antonello Colonna, sicuramente, visto che è a Roma e visto che esiste anche un carciofo romanesco, come viene chiamato, e poi ci collegheremo con la Dispoli, con un produttore, voglio chiedere a Antonello Colonna, lui quali carciofi usa? Buongiorno Antonello. Ciao, buongiorno a tutti. Aggiungo rigorosamente il romanesco, quindi il cimarolo, il famoso carciofo cimarolo, che è quello per noi romani in questo periodo soprattutto si presta a tante interpretazioni, da quelle più tradizionali che comunque rimangono per un prodotto come il carciofo un po' i capisaldi di questo prodotto, che sono la giudia piuttosto che la romana, piuttosto che la fascinella, che sono con un carciofo tipo questo si possono realizzare. Cioè, Roma vanta una grande tradizione del carciofo, con tutto il rispetto per il carciofo spina, però ecco, il carciofo spina, che comunque lo conosciamo anche noi chef del centro-sud, però per certe lavorazioni si presta meno. Adesso addirittura con queste nuove tecniche della bassa temperatura il cimarolo, quindi il carciofo detto romanesco, si lascia più gestire, è più tenero, è più l'anima è molto più morbida, la foglia è croccante, quindi anche per molti piatti crudi, perché ripeto, il carciofo è veramente, insieme alla patata, uno dei prodotti più straordinari e più da interpretare in tutti i suoi aspetti. Quindi dal classico carciofo fascinella, che è questo modo di cuocerli nella brace dei tralci d'uva, quando si poda la vigna si mantengono queste fascine, si fa la brace e si immergono dentro questa brace, addirittura lubrificandole con dell'olio attraverso una canna lunga almeno un paio di metri. Quindi è questa antica tradizione popolare. E ecco, non parlare poi della giudia o della romana. Attendi un secondo, perché poi ci parlerai anche di questo. Ma abbiamo con noi Angelo Leccesi, carciofo di La Dispoli e appunto dell'azienda agricola Angelo Leccesi. Buongiorno Leccesi. Senta, anche lei ha avuto grossi problemi come i suoi colleghi con cui ci siamo collegati a Uri e a Pestum sulla, diciamo, le coltivazioni di quest'anno. Addirittura da Uri ha dato un messaggio, appunto, Roberto Simola, drammatico: 80% della produzione è andata distrutta. Ma diciamo, da noi no, l'80% no, comunque un 50% di tutta la produzione primotica, diciamo che sì, è andato perso. Ecco, cosa c'ha di particolare questo carciofo di La Dispoli o carciofo romanesco, insomma, di cui già ci stava parlando Antonello Colonna? Ma il nostro carciofo è un carciofo tondo, con il buco in mezzo, colore violetto, verde e violetto, e è molto tenero, perché il periodo nostro da adesso è tenero, tenerissimo, addirittura si cuoce in 10-15 minuti. Bene, Leccesi, rimanga con noi. Voglio chiedere a Passalacqua se, diciamo, nella scelta dei carciofi c'è qualche trucco da tenere presente, cioè per scegliere il meglio. Ma diciamo che, come hanno detto i produttori, quest'anno è stata un'annata veramente difficile per i carciofi. Veramente è stato difficile andare sul mercato, trovarli, ma il trucco, io di solito li tocco e controllo che siano belli sodi, un bel verde con delle belle foglie belle sane, un bel gambo, che anche quello tasto, quando lo sento bello, non dico morbido perché comunque il gambo ha un po' un aspetto più duro, però già si sente, si capisce che il carciofo poi può essere tenero. Bene, torniamo a Antonello Colonna, che ci stava spiegando il carciofo e la giudia, perché questo è importante, la gente fa molto confusione. Ci spieghi come sono i carciofi e la giudia, Antonello? Il carciofo e la giudia è quello che viene aperto, quindi viene sfogliato, infatti si mangia quasi come un fiore, come una rosa, no? Tamo non tamo, viene poi immerso in questo olio bollente, che deve essere rigorosamente bollente, e lì il trucco è quello di capire il momento perfetto della temperatura dell'olio, mettendo o un classico stecchino di legno, che che crea intorno delle bollicine come delle bolle di champagne, oppure con il classico sfizzo d'acqua. A quel punto ecco che questo carciofo, ma ripeto, questo tipo di piatto alla giudia si può fare solo col romanesco, solo col cimarolo, solo col carciofo, che sì, oggi ha dato vita anche a allevamenti in altre zone, ma la Dispoli, la Valle di Ariccia e la Valle di Cerveteri sono quelle un po' più invocate, interessanti. Insomma. Poi i trucchi per sceglierlo, una cosa importante da consigliare a chi acquista il carciofo, quando vedete che già si presentano nelle casse senza le foglie, senza il fogliame, c'è qualche cosa che non quadra, perché solo attraverso il fogliame si riesce a riconoscere la freschezza, addirittura la raccolta, quella che chiamiamo filiera o tracciabilità, cioè capire da quanti giorni è stato raccolto. Poi è chiaro, sodo è l'altro trucco, un po' come avviene nel cioccolato, per capire se è un cioccolato a una percentuale di cacao alta. Di cacao alta è spezzare le prime foglie, spezzandole devono fare un rumore netto. Questi sono i trucchi che anche chi ci sta ascoltando per radio può al volo capirli. Già le prime foglie non debbono essere mosce, debbono spezzarsi perfettamente con un taglio come quando proviamo le tavolette di cioccolato. Antonello, ti chiedo un altro trucco per conservare un carciofo, dove cioè una volta che diciamo si è tagliato, c'è qualche modo magari per conservarlo per 24 ore? Ci sono, guarda, 24 ore diventa esagerato, diciamo che già siamo bravi se riusciamo a conservarlo una volta già cotto, perché da crudo, e questo è un trucco che in parte sanno tutti, però io ne aggiungo un altro che forse non tutti sanno. Intanto va pulito, quindi mentre va pulito, carciofo per carciofo, va immerso nell'acqua. In quest'acqua solitamente ci spremono il limone, ed è sbagliatissimo, perché quell'agro del limone lo ritroviamo poi qualsiasi tipo di cottura o di ricetta. Quindi il limone va spezzato in due e immerso nell'acqua insieme ai carciofi, e questa è una cosa che li può rendere comunque belli verdi, addirittura li può sbianchire, come si dice in gergo. Ma il vero trucco, David, è un pizzico di farina. Bene, cioè mette anche l'acqua minerale, è un pizzico di farina. Mettendo questo pizzico di farina, l'ossido del carciofo si toglie completamente, l'acqua diventa nera e il carciofo rimane bello bianco, colorato, verde. A quel punto però va cotto, e quello che si mantiene di più è il carciofo detto alla tartara, quello che viene bollito in acqua e aceto e che poi viene condito con un pistacchio d'aglio, prezzemolo e olio e servito con i migliori bolliti. Bene, grazie Antonello, veramente ci hai dato così la Bibbia del carciofo. Un'ultima domanda ad Angelo Leccesi: quanto costa un carciofo appunto del carciofo di La Dispoli? Ma adesso sul mercato all'ingrosso lo troviamo da €1 a €1,20, diciamo il cimarolo, il primo della pianta. Fin dalla primizia. Senta, il cimarolo si può trovare anche a meno, insomma, 70-80 centesimi. Senta Leccesi, sentite la concorrenza di qualche paese estero che porta carciofi in Italia? Ma sì, c'è la Tunisia che è un grosso produttore, c'è il Marocco. Questi sono i due più importanti, immediati concorrenti nostri, perché fanno proprio la tipologia romanesca e influiscono sul nostro mercato. Bene, grazie ad Angelo Leccesi dell'azienda Leccesi di La Dispoli, appunto specializzato in carciofo. Il gastronauta. Eccoci, dopo aver parlato a lungo di carciofi nelle varie aree italiane evocate, ora parleremo di tartufo marzolino. Bene, cominciamo questo viaggio in questo particolare tartufo da Acqualagna, una delle capitali appunto del tartufo italiano, con Alba, e ci colleghiamo con Giancarlo Marini, che è un commerciante operatore nel mondo appunto del tartufo, assai noto appunto ad Acqualagna e anche fuori da Acqualagna. Buongiorno Marini. Buongiorno a lei e buongiorno ai radioascoltatori. Senta, io volevo innanzitutto cominciare da dare una definizione. Cos'è il tartufo marzolino? Il tartufo marzolino è il bianchetto, il tuber borchivit o albidium. È un tartufo che nasce da gennaio fino alla fine d'aprile. È il fratello più povero del tartufo bianco. Quindi è il fratello minore, insomma, del tartufo. È il fratello minore, sì. Senta, qual è il periodo di raccolta di questo tartufo? Dal primo di gennaio alla fine d'aprile. Quindi siamo, diciamo, in piena stagione, insomma. Siamo in piena stagione, sì, adesso è proprio il momento, il massimo della produzione. Senta, e dal punto di vista gustativo sicuramente non ha, certo. Diciamo, no, dal punto di vista dell'odorato o del bouquet non ha sicuramente le qualità che ha il bianco, insomma. Beh, certamente è un tartufo che leggermente agliaceo, leggermente, è un tartufo che va cucinato, va scaldato, a differenza del tartufo bianco che si affetta crudo sulle pietanze, questo è un tartufo che preferisce essere scaldato un pochino, però ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, permette a tutti di togliersi la soddisfazione di mangiare un buon primo al tartufo a costi decisamente ragionevoli in questi periodi soprattutto. Ecco, quando parla di costi ragionevoli a quanto si riferisce? Siamo intorno ai 200 euro al chilo, 180 euro al chilo, quindi. Quindi diciamo che è una battuta un po' cattiva, potrebbe essere considerato il tartufo della crisi. Però naturalmente è quello che permette alle persone di sedersi al tavolo, fare una cena, un pranzo a base di tartufo e non svenarsi sotto il profilo economico. Ecco, ecco, rimanga con noi perché così vogliamo parlare appunto di cucina del tartufo. Poi quest'anno da noi è particolarmente abbondante, la stagione ci ha favorito, tra l'altro è proprio nel periodo di carnevale al mio paese c'è stato il lancio dei tartufi dai carri carnevaleschi e si trattava proprio di questo tartufo. L'amministrazione ha voluto un pochino cercare di far mangiare i tartufi a tutti quelli che partecipavano al carnevale e ha lanciato, come si fa in altri carnevali con i dolciumi, i tartufi sulla folla. Bene, rimanga con noi Paolo Barrale, Paolo Barrale, ristorante Marennà di Sorbo Serpico, buongiorno. Buongiorno a te Davide. Complimenti per la stella che hai avuto quest'anno. Bene, volevo... Tu sei in una zona che forse da pochi è conosciuta l'Irpinia come zona dei tartufi, invece i tartufi ci sono e come, vero? Beh, io vorrei ricordare che insomma il tartufo può essere veramente preso in considerazione come prodotto forse più del sud che del nord, perché credo che il Molise copre più del 40% della produzione italiana. Bene, lasciamo queste stoccate sud e nord, ma parlami dell'Irpinia, parlami del tartufo dell'Irpinia. Il tartufo dell'Irpinia, beh, il più rappresentativo sicuramente è quello che nella scala evolutiva del tartufo forse lo possiamo mettere a livello dell'uomo di Neanderthal, che è il tartufo nero di Bagnoli. Le qualità organolettiche sicuramente non lo fanno fra i più pregiati, anzi, diciamo che lo mettiamo proprio all'inizio. È un tartufo molto forte, fenico, carico di quell'odore che sembra vicino a quello delle vernici, però successivamente alla cottura diciamo dà un buon risultato, un po' come il bianchetto, ecco, come il marzolino. Ecco, appunto, stavamo parlando di marzolino e volevo chiedere, tu come utilizzi il marzolino? Beh, il marzolino, ovviamente, come è stato già detto da chi prima di me, è un tartufo che va appena scaldato, perché post cottura praticamente diventa veramente immangiabile. Lo uso crudo, lo uso appena tiepido su un piatto della tradizione popolare che è salsicce e friarielli, cioè ovviamente un piatto molto povero che noi abbiamo ridato nuovamente alla clientela del ristorante in chiave moderna. Abbiamo fatto una specie di piccolo hot dog con un del pane croccante e una salsiccia anziché fatta con la classica carne di maiale con della carne di coniglio. La serviamo con dei fagioli di Controne, che è un paese qui vicino che dà degli ottimi prodotti, soprattutto quei legumi allevati in aridocultura, coltivati, non allevati. E alla fine mettiamo i friarielli e il tartufo marzolino. Con quale vino lo servite? Beh, sicuramente il bianco, visto che comunque è un gusto forte, ma non mettiamo il maiale vicino. Quindi sicuramente la mineralità del tartufo la possiamo benissimo seguire con un buon greco di tufo. Ma di chi? Di quale azienda? Visto che siamo a Feudi di San Gregorio, mi sembra scontato. Vabbè. Sicuramente Feudi di San Gregorio. Vabbè. Bene, rimanete con noi, sentiamo ora, andiamo in Toscana, altra terra di tartufi. Andiamo da Atos Signorini, presidente dell'associazione Tartufai Bassa Valdelsa. Buongiorno Signorini. Buongiorno a lei. Allora, è tempo di Marciolino? Sì, è tempo di Marciolino, sì, è tempo di Marciolino, tanto è vero che noi dal 20 come associazione Tartufai facciamo una sagra qui a Certaldo. Quindi siamo in pieno periodo. E quanto viene il tartufo da voi, Marciolino, in questo periodo? Aspetta, contrariamente a quello che ho sentito, qui da noi la stagione è molto scarsa. Tanto è vero anche sul litorale tirrenico, dove abbonda il tartufo marciolino, non c'è produzione, assolutamente. Quest'anno qui da noi non ce n'è. Mi sono rimasto perplesso quando ho sentito quel signore che diceva che hanno buttato i tartufi come sassi dai carri allegorici di carnevale. Guardi, ci ricolleghiamo con Marini, chiediamo allora se è una stagione abbondante oppure se invece è una stagione così, oppure se da loro qual è la situazione, insomma, Marini. Beh, da noi è una stagione tra le migliori, come lo è stata per il tartufo bianco. Per il bianchetto è una, forse la miglior stagione che abbiamo mai avuto. Io parlerei, come per il bianco, di annata del secolo. Non si fa fatica da noi, nelle nostre zone di Acqualagna, a trovare anche un chilo o un chilo e mezzo di marzolino al giorno, i cercatori più esperti. Quindi la stagione, le condizioni climatiche, a sentire anche altri colleghi sparsi per l'Italia, sicuramente quest'anno ci hanno favorito. Beh, quindi questo significa veramente che, diciamo, da territorio a territorio c'è sempre grandissima differenza, non solo per il tartufo ma anche per tanti altri prodotti, l'abbiamo appena sentito anche per i carciofi. Torniamo a signorini, voglio sapere una ricetta tipica della vostra zona con cui viene usato il marzolino. Senta, noi gli posso dire l'antipasto del tartufare, noi lo chiamiamo così, no? E dunque, un uovo sodo, sì, fatto in quattro spicchi, con del parmigiano a scorze, con dei ravanelli, due o tre ravanelli, un pomodoro ciliegino e poi scorze di tartufo marzuolo, senza cuocerlo, così a freddo. E cosa ci beviamo sopra, signorini? Un buon Chianti, ma Chianti giovane? Sì, Chianti è abbastanza giovane, direi, sì, non vecchio, no, il vecchio si riserva magari per la tagliata al tartufo. Bene, io ringrazio a signorini, grazie a Barrale, grazie a Marini. Ebbene, anche oggi chiudiamo questa trasmissione tra carciofi e tartufi marzolini. Bene, io vi do appuntamento domani alle ore 10, dove verrà data in replica questa trasmissione, poi alle 12:15 con il wine bar del Gastronauta e ogni giorno con la pillola delle 18:30. Bene, vi auguro un grande buon weekend da Davide Paolini.